mio intervento è molto diverso da quello del professor Micheletti. Era estremamente necessario e che indubbiamente è stato un intervento ricco e in dialettica coi vari contributi. Il mio intervento si riferisce di più al materiale raccolto soprattutto nel secondo volume, ed è inutile, credo, dover fare gli onori sia all'iniziativa dell'Istituto sia al frutto che sono questi due volumi. Devo dire che mentre si ha la sensazione che soprattutto in ambienti culturali esteri ci sia molta attenzione al tema del silenzio, soprattutto negli ultimi 10 anni, in Italia in realtà mi sembra che ci sia una certa lentezza e sono significativamente più le scienze umane che tornano a questo tema, oso dire con rimprovero, che non la coscienza religiosa. Quando qualche anno fa l'Università di Palermo ha organizzato un symposium sul silenzio, si era stati molto colpiti che in quel symposium non ci fosse nessuna voce che portasse la testimonianza del silenzio nella tradizione cristiana. Ma se voi cercate una riattualizzazione del messaggio sul silenzio nella tradizione cristiana oggi, inutile, voi non lo trovate. Questa è la situazione. E credo che si debba ringraziare davvero Baldini, perché con i suoi volumi antologici ha dato la possibilità di vedere che questa tradizione c'è ed ha una certa consistenza. Allora io non sto a rendere onore al frutto di quei convegni e a tutti gli interventi. Ne posso entrare in dialettica con tutti perché per quel che riguarda il secondo volume i temi che più mi toccano, i contributi sono almeno 20. Allora il mio intervento vuole essere da un lato un intervento che supplisce a un certo vuoto che c'è nel volume. Con la stessa franchezza con cui dico che il frutto è enorme, io confesso che ho trovato alcune parti, soprattutto quelle riguardanti la tradizione spirituale cristiana, le connessioni anche con l'Antico e col Nuovo Testamento, indubbiamente alcune volte un po' deboli. Ed è soprattutto in quell'ambito che io vorrei entrare con questo mio intervento. Credo che conosciate la bellissima poesia di Costantino Cafafis, una poesia che è del 1913, ma estremamente significativa per il nostro tema. E se non vuoi la vita che desideri, cerca almeno questo per quanto sta in te. Non sciuparla nel troppo commercio con la gente, con troppe parole e in un via vai frenetico. Non sciuparla portandola in giro in balia del quotidiano, gioco balordo degli incontri e degli inviti, fino a farne una stucchevole estranea. Mi sembra che bene introduca questa poesia come io voglio affrontare il tema del silenzio. Oggi c'è un eccesso di parole, c'è un eccesso di suoni disarmonici che vengono ripetuti in modo ossessivo, insistente, che non solo arriva a ferire le nostre orecchie, ma rischia di danneggiare il nostro equilibrio psichico. Forse per questo il silenzio diventa un'esigenza umana prima che spirituale. E significativamente viene definita sempre di più un'esigenza ecologica. Ma il silenzio, io credo, è soprattutto necessario per ridare l'unità al proprio essere. Quell'essere che rischia una dissipazione nel troppo commercio con la gente, come dice Cafafis, per ridare senso e pregnanza ai rapporti che rischiano di cadere nella banalità, per ricordare che forme di comunicazione intraumana non sono ristrette soltanto a quella verbale. Vedete, la tendenza che c'è nell'uomo d'oggi è quella di organizzare e programmare la vita in modo tale che non restino tempi e spazi vuoti, che non si possa vacare, per usare quella bellissima espressione cara ai padri medioevali, vacare, vacare Deo, un'espressione che viene dalla Vulgata per una traduzione del Salmo 46, vacate, fate spazio del tempo per incontrare Dio. Noi ci troviamo ad essere sollecitati e distratti da una miriade di parole, di messaggi, di attività, di immagini. E a questa vertigine che provoca stordimento, l'uomo rischia di fare l'abitudine e di trovare perciò sempre più difficile il silenzio, sempre più difficile la concentrazione e la riflessione a partire da se stesso. Elementi questi necessari per poter incontrare gli altri nell'autenticità. Se il silenzio viene a mancare, viene inevitabilmente meno la capacità di ascolto. Questo è il vero dramma. Non saper far silenzio porta a non saper più comunicare, a non mettersi più in relazione veramente dialogica con gli altri, ma soprattutto, e su questo Buber è stato estremamente lucido e profetico, a non cogliere più l'altro nella sua alterità. Voi capite questo come sia grave all'interno di una tradizione spirituale come quella cristiana. Se al cristiano vengono a mancare le dimensioni della solitudine e del silenzio, gli viene preclusa la dimensione essenziale per la sua fede, la dimensione dell'ascolto. Se l'uomo vive continuamente proteso fuori di sé, non può ascoltare il Dio che parla dentro di lui, né sentire la sua presenza quanto mai a lui intima, e arriva a dimenticare di essere egli stesso innanzitutto il luogo dove Dio ha posto la sua dimora. Se l'uomo non è più capace della liturgia interiore, allora la vita interiore, la preghiera, la comunione con Dio, l'ascolto della parola sono inevitabilmente minacciati. E la mancanza di silenzio è una delle più forti cause che provocano l'annebbiamento, la marginalizzazione delle realtà spirituali, ed è una mortale minaccia portata al discernimento che il cristiano deve operare tra la parola di Dio e le parole umane. Ecco perché la necessità del vacare Deo, rompere il ritmo delle attività, tralasciare lavoro e occupazioni e stare in silenzio, dedicando quel proprio tempo a Dio per ridare a Dio, che è innanzitutto il Signore del tempo, almeno una parte del proprio tempo. Il silenzio, in sostanza, non può essere delegato, come avviene di fatto oggi, al mondo monastico, perché proprio essendo una dimensione per l'ascolto essenziale riguarda tutti i cristiani. Nella scrittura, se uno vuole cercare indubbiamente, fare una ricerca sul tema del silenzio, trova poche esplicite esortazioni. Tuttavia il silenzio appare sempre come la condizione necessaria per stare di fronte a Dio, per aprirsi alla presenza di Dio, per avere comunione con Dio. Ricordo solo tre passi. Abdia Abacuc 2:20, faccia silenzio davanti a Dio tutta la terra, Sofonia 1:7, silenzio alla presenza del Signore, Zaccaria 2:17, faccia silenzio ogni carne davanti al Signore. Ora, noi sappiamo che questi tre testi al di là, che accuminano dei profeti del dopo esilio, sono soprattutto dei testi che riportano esclamazioni liturgiche, inviti cultuali che trovavano la loro collocazione nel quadro dello svolgersi della liturgia. È il silenzio di fronte a Dio. È significativo che una traduzione del testo masoretico dell'incontro tra Elia e il Signore all'Oreb, normalmente tradotto purtroppo nella Bibbia Cei, allora arrivò una brezza leggera, il testo, se si vuole tradurre dal testo masoretico ebraico, e allora ecco un silenzio trattenuto, non una brezza leggera, un silenzio trattenuto. E dunque, vedete, il momento dell'incontro con Dio, è il momento della comunione con Lui. Il silenzio ne è dunque lo spazio. Il tema del silenzio si ritrova poi alcune volte nel Salterio, sì, finalizzato al raccoglimento in sé alla preghiera, il Salmo 4, sul vostro giaciglio riflettete, fate silenzio, ma soprattutto come affermazione teologica dell'eminente valore della preghiera che porta alla comunione e alla dimora di Dio, che è una preghiera anche silenziosa. Per te anche il silenzio e lode, o Dio, in Sion, significativamente espressione non più compresa già dalla 70, che traduceva a te si deve la lode in Sion, te decet in Sion laus. O ancora Dio solo, verso di Lui nel silenzio si apre la mia anima, da Lui viene la salvezza. E poi pensate al Salmo 131, tutto intessuto sul sod, il colloquio silenzioso tra il credente e il suo Dio, che vuole avere il rapporto con Dio di un bambino attaccato al seno di sua madre. Certo, abbiamo poi all'interno dell'Antico Testamento tutta una serie di inviti alla letteratura sapienziale, e sono quelli che sono presenti nei due contributi di Stiglmaier, Parole e silenzio nell'Antico Testamento, e poi anche in quello di Ratti. Ma ciò che mi sembra indispensabile percepire dal messaggio dell'Antico come del Nuovo Testamento è che il silenzio resta la dimensione necessaria per l'ascolto e l'incontro con Dio. Il Dio dell'alleanza, il Dio che parla, che è parola, il Davar, ma è il Dio che tace, che rimane nel silenzio, è il Dio che, dirà Paolo, senza nessun debito pagato all'ellenismo, il Dio che è avvolto nel silenzio dei secoli eterni. Non è un caso che poi si ritrovi in Gesù di Nazareth l'amore per il silenzio, la solitudine, il suo ritirarsi, quel continuo fare anacoresi, come amano dire i testi dei Vangeli sinottici, nel deserto, nelle ore di notte. Certo, anche quello è un silenzio teso all'ascolto del Padre. L'ascolto della parola avviene solo nel silenzio e grazie al silenzio, perché la parola è generata dal silenzio. Ricordo il testo di Sapienza 18, mentre un profondo silenzio avvolgeva le cose, la notte era a metà dal suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal suo trono regale, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio. Riattualizzazione della visione dell'Esodo nell'epoca intertestamentale. Ma la parola che esce dal silenzio dei secoli eterni trova accoglienza e dimora nei credenti proprio nel silenzio. L'ordine rivolto da Mosè a Israele in Deuteronomio 27 resta normativo per ogni incontro con Dio e nella parola, e i rabbini più volte tornano su questo testo col commento, dicendo che è il testo che ogni assemblea e ogni ebreo dovrebbe ricordare prima di entrare nella preghiera. Fa silenzio, Israele, e ascolta il Signore. Oggi sei diventato popolo del tuo Dio, ascolterai dunque la voce del Signore. È il silenzio che permette l'ascolto, l'accoglienza della parola, la vera obbedienza interiorizzata. Quando l'uomo deve riconoscere la presenza attiva di Dio nel cuore della storia, come nella liturgia, come in se stesso, deve assolutamente lasciare spazio al silenzio. Si arriva addirittura sia coi padri orientali che con quelli occidentali, ma soprattutto coi cappadoci, a vedere che il silenzio è un fondamento cristologico. I padri fanno notare che Gesù ha taciuto nei momenti estremamente significativi e pregnanti, le teofanie del Vangelo. Si è avvolto di silenzio al momento del giudizio, ha fatto silenzio di fronte al sommo sacerdote, di fronte a Pilato, di fronte a Erode. E qui mi permetto di dire, perché è un dato anagrafico che ha la sua importanza, io sono ancora uno di quelli educati all'interno della Chiesa quando nella catechesi cristiana c'era il silenzio. Ricordo ancora oggi, ma con estrema freschezza, le prediche del mio parroco su Iesus autem tacebat. Pensate che abisso, e ho solo 47 anni. Il silenzio c'è in sostanza come atteggiamento, come abito di Gesù. È il silenzio del giusto, è il silenzio del giudizio che getta in faccia al giudice iniquo la sua immagine aggressiva violenta. È il silenzio che non rivendica altro potere se non la forza della verità. È il silenzio di chi non si difende. È il silenzio dell'agnello afono di Isaia 53:7. Del servo che tace, ne alza la voce, il servo di Isaia 42:2. Ma se in Gesù c'è questo grande silenzio, nei momenti della teofania e poi nella passione, non si dimentichi che c'è un silenzio che accompagna tutto il suo ministero pubblico, scandisce la sua predicazione, e c'è il grande silenzio che avvolge gli anni precedenti il suo ministero. Il silenzio da cui Gesù è venuto e in cui è nato. Generato nel silenzio di ascolto e custodio della parola di Maria, e nel silenzio di Giuseppe, sigillo della sua obbedienza. Gesù vive lunghissimi anni nel silenzio prima di iniziare il ministero pubblico. È significativo che i Vangeli tacciano sugli anni precedenti della vita di Gesù, perché in tal modo rilevano il mistero del ritiro, della solitudine, del silenzio del Messia, tema questo caro alla letteratura rabbinica, di cui noi troviamo poi un eco nella dossologia conclusiva della lettera ai Romani 16:25, dove Paolo parla del mistero taciuto nei secoli eterni ma ora rivelato. Ecco, in questo lungo silenzio, il silenzio che ha continuato a contrassegnare il suo ministero di annuncio della parola, Gesù ha vissuto e poi si è chiuso nel silenzio della passione e della morte. E in questo processo c'è una verità importantissima da percepire. Più l'uomo nel silenzio tende all'ascolto, più lui diventa parola. I padri siriaci insistono questo, costantemente. Quando dicono al monaco di fare silenzio, non lo dicono mai in termini ascetici, in termini stoici del silenzio come disciplina, ma fai silenzio perché tu sia un logos, tu sia un memra, una parola di Dio. Vedete, c'è qui la comprensione esistenziale vissuta della teologia del quarto Vangelo. Cristo è il Verbo e la parola fin da principio, ma nella carne di Gesù di Nazaret la parola si è fatta uomo in tutta una vita, una storia, non solo nel concepimento e nella nascita. Ma più la parola si fa carne, e Efremil Siro insiste, più diventa silenzio. E Gesù finisce la sua vita nel silenzio di servo di Adonai, di agnello afono, perché ormai tutta la parola in lui si è fatta carne, e lui non aveva più bisogno di parlare. Con tutta la sua persona lui narrava Dio e non aveva più bisogno di ricorrere al linguaggio verbale. In Gesù Cristo noi vediamo che la parola fatta carne è stata silenzio per almeno 30 anni, poi è tornata al silenzio. È molto importante questo, non lo ricordo solo perché era l'esemplarità nella catechesi e nella spiritualità cristiana, ma perché indubbiamente è un tratto di Gesù che si rivela costantemente, anche nei rapporti, nell'incontro con la folla, con la gente, come coi demoni. Quante volte c'è il grido di Gesù: taci, mantenete il silenzio, tornate al silenzio, perché questo trambusto e questo baccano. È una dimensione estremamente importante e che noi dovremmo tenere più presente. I padri hanno ben capito la rilevanza teologica di questa dimensione del silenzio. Ignazio di Antiochia afferma che Gesù il Cristo è la parola uscita dal silenzio e la parola che procede dal silenzio. E quando si arriva a dire che Gesù non è solo la parola, il logos, ma anche il silenzio, lo si dice proprio sul non detto dell'Antico Testamento, ma sull'appena rilevato del Nuovo. La parola si è fatto carne fino al silenzio, questo è il culmine della kenosis. Anzi, la parola è nata dal silenzio di Dio e il fine ultimo della manifestazione della parola fu il silenzio. Ma in realtà l'agnello non ha periens ossuum, ucciso nel silenzio assoluto, e l'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo nel silenzio di Dio. E la dizione di Apocalisse 13:8, come l'ha letta i padri orientali, che parla dell'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo, oggi sempre meno contestata, è probabilmente la lezione buona anche dal punto di vista testuale. Questa immolazione avvenuta nel silenzio dello spazio trinitario fin dalla fondazione del mondo si è solo manifestata nell'immolazione dell'agnello afono di Isaia 53. Ma il silenzio ha tutta una portata spirituale. Se è vero che il Nuovo e l'Antico Testamento ci dicono l'essenziale, è pur vero che all'interno della grande tradizione spirituale cristiana, soprattutto quella monastica, il silenzio è un tema che percorre tutte le pagine. Non ho certamente il tempo per fare solo una panoramica di questi temi, ma alcuni li voglio sottolineare. Innanzitutto il silenzio per l'unificazione del cuore della persona. E il tema della monosis, dell'unificazione, cara ai padri del deserto. Il silenzio è estremamente importante, perché l'ipocrisia religiosa, l'ipocrisia che riduce a pura scena la preghiera e la liturgia, non è altro che l'organizzazione, l'erezione a sistema di una schizofrenia spirituale più profonda, di una scissione in cui la persona non si percepisce più nella sua unità, ma è sdoppiata tra una interiorità e una esteriorità che tra loro non collimano, di cui il segnale è il linguaggio, è il parlare. Il silenzio ancora come necessario per la vigilanza che apre all'ascolto della parola. È necessario restare attenti, custodire, conservare, fuggire la dimenticanza. Benedetto ammonisce con forza a fuggire nel modo più assoluto il torpore della mente e la dimenticanza, l'intontimento spirituale. E allora per questo deve stare nella nepsis, nella vigilanza. Ma la vigilanza richiede innanzitutto il silenzio. Richiede il silenzio come spazio in cui la mente non viene distratta dalla ricerca di Dio, dalla sua contemplazione. Il silenzio diventa lo spazio in cui la preghiera è fatta di poche parole, non al modo di pagani che le moltiplicano. Il silenzio diventa lo spazio in cui si ascolta la propria verità. Ci sono verità dentro di noi che noi possiamo percepire e cogliere solo col silenzio. E non è vero che tutta la verità è consegnata alla parola. C'è una verità inespressa e inesprimibile verbalmente, di cui dobbiamo fare l'esperienza. E noi dobbiamo tentare di operare in noi questo discernimento, questa esplorazione delle nostre profondità, per cogliere questa verità non consegnata alla parola e alla comunicazione verbale. Pensate poi a tutta la grande tradizione del silenzio come necessità per la vita fraterna e per la pazienza. La pazienza Christi, silentium Domini. La pazienza di Cristo è stata innanzitutto il silenzio del Signore. Di fronte alla contrarietà, alle durezze, alle ferite, di fronte alle nostre ribellioni, che tentano sempre di esprimersi con la parola, e la nostra prima reazione è la parola, il silenzio diventa il principio di un cammino che deve portare alla vittoria sulla nostra aggressività, sulla nostra reattività. È qui che si impara la grande pazienza in vista della carità. La parola è difficilissima da controllare. E voi sapete che il Nuovo Testamento è durissimo nei confronti della parola. Giacomo, nella sua lettera al capitolo 3, versetti 1-12, arriva a dire che se uno non manca nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno tutto il corpo, e chiama la lingua un mondo di iniquità. Un mondo di iniquità. Ma ci sono ancora altre ragioni per l'insistenza sul silenzio da parte della tradizione spirituale cristiana. Si impara a tacere per contentionem non amare, per non amare la discussione, le dispute. c'è ancora il silenzio necessario per la pace interiore. C'è il silenzio necessario soprattutto per la contemplazione. La contemplazione della grande tradizione spirituale cristiana, non quella minore medioevale, ma della grande tradizione, in cui la contemplazione non è una via riservata ad alcuni in forme straordinarie, ma la contemplazione è la teoria, cioè il vedere le cose con gli occhi di Dio, avere lo sguardo di Dio sulle cose, nutrirsi della macrotimia neotestamentaria per vedere il mondo, gli eventi, le persone come le vede Dio. Ma per questo com'è necessario il silenzio? Il silenzio ormai perso nella tradizione cristiana. Secondo me, per anni le nuove generazioni non sapranno che cos'era questo valore nella tradizione cristiana. E questa è una grave colpa di questi ultimi 20 anni, aver perso degli elementi fondamentali che erano anche un grosso servizio a una maturazione e a un cammino umano, non soltanto alla vita cristiana. Grave perdita che purtroppo arriva a manifestarsi anche nella liturgia. Mi rincresce che l'articolo sulla liturgia di Monsignor Lodi non abbia tenuto conto non solo eventualmente degli elementi che dal nuovo ordo vengono visti come elementi di silenzio nella liturgia, dopo l'omelia, dopo le letture, ma il problema serio è che ormai, data la struttura attuale della nostra liturgia e delle nostre chiese, né lo spazio né la liturgia è fatta per il silenzio. E si rimedia soltanto con una strutturazione dell'assemblea diversa e con un rivivere la liturgia nel vero dettato del Concilio e non invece in una certa prassi come è venuta configurandosi. Anche lì è la perdita di un valore. Permettetemi di dire, non ci si può lamentare che la gente dica al momento del silenzio che perdura più di 2 minuti è normato dal celebrante, che cosa stiamo facendo? Non ci si può lamentare. E in un continuo protagonista da parte del presbitero che guarda l'assemblea e che l'assemblea si attende costantemente che ci sia eventualmente il dialogo, che ci sia la comunicazione, non il silenzio. Occorrerebbe almeno pensare che parti delle messe il presbitero e il popolo le facciano entrambi rivolti come chiesa in cammino verso una direzione, l'abside, come era in tutta la liturgia romana e come in tutte le liturgie orientali. Sono perdite gravi. Dico questo perché ormai la perdita, una volta che è entrata a livello strutturale di edificio sacro o di liturgia, richiederà lungo tempo per poter avere la possibilità di essere reintrodotto come un valore. Concludo dicendo che io spero che questi libri siano soprattutto letti, i 2 volumi, in ambito cristiano, e quelli che hanno l'impegno di una formazione spirituale trovino in questi volumi i fondamenti per l'elaborazione di una catechesi, di una sapienza spirituale che una volta li trovavamo nel Marmion, li trovavamo nel De Cossat o in quei grandi maestri di vita spirituale, ma che oggi, non essendoci più, non si saprebbe più dove trovare ancora delle linee, dei fondamenti per mantenere il valore spirituale del silenzio all'interno della tradizione cristiana e all'interno dei credenti. Mi auguro che questo libro voglia aprire davvero e che si arrivi attraverso quelli che fanno anche l'esperienza del silenzio, che la vivano all'interno della loro esperienza religiosa, si arrivi a riportare questo valore al cuore del popolo di Dio. Altrimenti sarebbe una gravissima perdita e ci troveremmo costretti tra qualche anno a essere debitori di quanti fuori dello spazio ecclesiale, attraverso loro vie, come le scienze umane, ci ricordano quei valori che noi abbiamo troppo facilmente dimenticato.